E questi ladri di preti e fattori, viva la guerra, gli hanno gridato, viva la guerra, più non grideranno, perché a farla tocca a noi. E mi babbo, e mi dice a me, zitta, vuol te l'andare, zitta.